773. Gelato di latte di mandorle. Descrivo per voi, signore, di gusto delicato e fine, il seguente gelato, nella persuasione che lo aggradirete molto, ed avendo spesse volte rivolto a voi il pensiero nel compor questi piatti, onde interpretare e soddisfare anche il gusto vostro, così non posso distaccarmi da voi senza augurarvi che conserviate a lungo gli invidiabili pregi della florida salute e della bellezza. Zucchero grammi 200, mandorle dolci con 4-5 amare, grammi 150, acqua decilitri 8, panna decilitri 2, odore di acqua di fior d'arancio o di coriandoli. Fate bollire lo zucchero nell'acqua per 10 minuti con entro i coriandoli, come nel latte alla portoghese numero 693. Se per l'odore vi servite di essi, sbucciate le mandorle, pestatele finissime nel mortaio, diluendole con qualche cucchiaiata del sirupo ottenuto e mescolatele al medesimo. Poi passatele da un pannolino rado, strizzando bene, onde estrarre dalle mandorle tutta la sostanza possibile, ripetendo più volte l'operazione del mortaio se occorre. Unite la panna al liquido spremuto, gelatelo nella sorbettiera e quando sarà ben sodo, servitelo in bicchierini. Questa dose potrà bastare per 9 o 10 persone.